ieri. Un attimino solo che sto guardando se ciò che stazionario. Ma non penso. Ma così vuoi? Basta voi buoni, basta stazionare, va a tenere la nuova. Io lo controllo sempre. Io controllo sempre io. Io ce li ho, dipende, sono una e due le mie. Un canali alti alti si muove a 1-1, proprio in alto in alto. Se no non ne ho niente proprio. Non si muove nemmeno l'acqua. E col vento che ha fatto lui, il casino col vento, l'hai visto il vento che ha fatto? Sì, quanto costa con l'antenna già? Ah? Quanto costa con l'antenna? €130 una cosa. No, costava 180 e me l'ha lasciata a 150. Ah, ma è un'antenna, Baro. C'ha l'incasso quello che va nel cubo, Franco mi ha detto che è un acciaio. A Sassari l'hai comprata. Cosa? Ho detto, se l'hai comprata a Sassari. Ia, l'ho presa la Fusara. Ho capito. Su internet non mi conveniva perché tra spese di spedizione tutto mi veniva più di €150, mi veniva 160 e qualche cosa. Quindi ho preferito prenderla qua. Beh, risparmiata. E te l'ha data subito anche. Vabbè, ma non resistente come antenna, com'è? Sì, è come la manto. Vabbè. Anzi, ho fatto anche meglio, perché la manto va la parte di sotto, si arrugginiva tutta questa cosa, tutta l'acciaio, quindi dovrebbe durare di più. Oh, sembra così, ma se non te puoi avere la parecchio che vuoi, ma se non fai l'antenna, fissa la musica. Io l'avrei potuto anche alzare di più, ma c'è troppo vento qua, lui, va bene così. Troppo vento fa da questa parte, dicano quel che dicano, cazzo, quando c'è vento qua, gli alberi fischiano proprio. Questo vento qua si sentivano gli alberi che fischiava. Che è? Adesso devo mandare un messaggio a me, ha preso questo computer. Beh, com'era questa pizza buona? Buonissima, sono andato alla roccia a mangiarla. E poi c'è una cosa, non è solo la pizza, tu ordini la pizza, vabbè, loro ti portano, per dire, prima della pizza ti portano supplì di riso, tutta roba offerta dalla casa, poi dopo la pizza ti portano il dolce, sempre offerto dalla casa. Eravamo in quattro e abbiamo preso tutte pizze, io l'ho preso a frutti di mare, e i frutti di mare sono freschi, non sono congelati. Poi gli altri come l'hanno presa? Uno l'ha presa prosciutto, come si chiama? Tartufo, non so che cosa, tutte particolari insomma erano. Una l'ha presa la parmigiana, con le melanzane la parmigiana, e poi non mi ricordo come l'ha presa Manuela, non me lo ricordo. Vabbè, comunque erano tutte particolari, €53 in quattro abbiamo pagato. Nulla, praticamente nulla. Io conto, noi in quattro, tra un momento mi sa, ad Alghero, non ho mangiato nulla, €70. Vai alla roccia, non sai dove è la roccia? No, non so cosa fa. Allora tu, salendo dalla sala di Alghero, trovi la piazzetta, no? A fianco alla piazzetta tu praticamente passi la piazzetta e c'è un vicolo, entri dentro e c'è scritto, c'è il cartello, la roccia, attaccata al muro. A più avanti di Matteo il cinese? Cosa, più avanti? Di Matteo il cinese. Non lo so dove sia. È finita la piazzetta, tu praticamente salendo da Alghero, trovi la piazzetta, alla fine dello stabile della piazzetta, a fianco c'è un vicolo, entri lì, c'è il fondo c'è la pizzeria, sta lì le scale perché rimane in alto, non è a piano terra, è in alto, capito? E niente, me la fumo di ieri. E ti danno tutti quanti queste cose, prima della pizza ti danno questi succhi di riso, poi ti danno un dolce fatto con la pasta della pizza, la Nutella, zucchero, non so cosa ci sia in mezzo, ma è buono. Va bene. Alla bella ti dici su io ho preso due bottiglie di birra e uno di acqua. 54 ore in due. 53 in 4. Beh, in 4, cavolo, buono. Buono. Fai circa 10 euro a pizza, da poi c'è vabbè il coperto. Va bene. Sì, ma poi è un ambiente abbastanza confortevole, c'è tutto, sono gentili. La verità, no? Non mi posso... E poi la pizza la fanno in un modo particolare, è tipo la, quella del napoletano, no? Che fanno le, i bordi alti e la pizza fina, ma sai quanto è buona la pasta? Poi la pasta puoi scegliere quella che vuoi, la normale oppure quella, cosa ti posso dire, cereali, eccetera, eccetera. Ti chiede che tipo di pasta volete, particolare oppure normale? Io non normale, io voglio la, la pasta normale e la pizza e frutti di mare, ho detto fa anche il riva, se vuoi arrivi. Va bene, voglia. Facci, l'hanno aperta anche a Porta Torres adesso la Ruccia, e di Porta Torres la tipa, lui non lo so, la tipa è Porta Torres perché è un'amica mia. Ehi, Ciandro, organizzerò Ciandro. Mi è sembrato poco fa, aspettate, Cristian, ci sei? Ha detto a buttarci tutto, boh, mi è sembrato lui, poi mi sono dimenticato a farlo entrare. Cristian, mi sono dimenticato a prendere la batteria del microfono, mi devo comprare la batteria, però voglio Duracell, perché quelle, ho preso quelle Panasonic, non servono a nulla, non durano nulla. No, Duracell ce l'ho qua nel microfono. Si dice, ce lo da un po' qua nelle mie più 4. Ma guarda, io c'è volatura, ce l'avevo roba di due anni forse, un anno e mezzo, due anni, e poi l'ho cambiata, ma queste Panasonic che le ho messe da poco, ce l'ho già a carichi, non capisco il per come, perché. Comunque mi assolutino che ne stacco, questo computer è a posto. Aspetta un attimo, già. Attento Cristo, ci sei, cambio. Tanzintro vabbè già. Cosa? E ho detto. Tanzintro vabbè. Ma la zinzola vabbè. La zinzola? Sì, ma sì. Come punto la mano? Ma sì. A meno che ci sia roba con acqua ferma, roba del genere, allora li attira. Cosa già ci sono? Se c'è qualche vaso magari che ci sia acqua, roba del genere nel fondo, li attira quello. E io vaso non ne ho. E le piante, questa roba qua li attira l'umidità. Se vi vuole arrivi di sì, ma... ma infatti... speriamo che arrivi in fretta. Come tu abiti ancora qua già? In fede, Si sa preso, in fede si è preso il coronavirus, poveraccia, è venuto a fare le ferie di Natale. Si è preso il coronavirus e non è potuta manco uscire. Ricordo come ero, ma deve ripartire. Deve ripartire domani. Domani la devo accompagnare. Se non l'accompagna la madre, l'accompagno io. Ho capito. Ha perso 3 aerei, non ti dico altro. Chi lei? È l'altra nottata, prima poi ha perso uno, poi ha perso l'altro, come è per il coronavirus sempre. Adesso questo qua è guarita, adesso è guarita, sono tutti guariti, a casa ci sono tutti guariti. Che strano, casino, via. Un casino. ieri di averci vivi, mi diceva, ah, io togliti la macchina, no, me la tolgo qua, se quando arrivo a mangiare me la tolgo, non me ne ha fatti nulla, non voglio di vedere un coronavirus. A vera cosa, ah, sono tutti col Green Pass, vabbè, cosa c'è? Se c'è qualcuno magari che dico gli asintomatici e ti bizzigheggia. Siamo ben esposte anche le cameriere, anche se hanno la mascherina, con tutta quella gente che va. Era pieno zeppo ieri, pieno, flu. Abbiamo prenotato, se non ne avremmo trovato. Certo. Sì, ci posso... ma sai dove è buona? Anche da Bruno già è buona, non si paga molto. Se ho pagato, bevuto, vabbè no, il dolce non ce n'è adatto, 4 pizze, 3 bottiglie di birra, 39 euro. Dipende che pizza ha preso però. La mia ha tolto cipolle, stavolta se l'ha presa... prosciutto e funghi, la moglie si è presa come si chiama, salmone e panna, poi c'è Marina la, quella pomodorini e basilico. Ma buono quello che c'è questa con la Maria la fece. Sì. Ma sì, quando c'avevo, quando ero ragazzo là, che c'avevo la greffa in piazza. Non ci andavamo lì in questa colonna Maria, la ci mangiava bene, la Bruno era rinomato prima. Ma già la fa buona, dai. Già la fa buona. Che pega. Stasera non esci già. Sì, stanotte. Alla Roccia praticamente fanno la pasta che è molto leggera come pasta. Non è pesante. Fanno una lievitazione di 36 ore. Ci vogliamo organizzare un venerdì, un sabato, la sapena domani solo l'esito. Noi, non so se c'è anche Stefano, se viene Stefano che rimane a Sassari, e un paio, Antonio Bobolo se vuole venire, mangiarci la pizza assieme. E infatti, possiamo fare, non c'è problema. E lì guarda, la fanno veramente buona. Ci credo, forno a legna. Sì, sono organizzatissimi, poi ti servono subito, c'era un bel di gente, noi quanto ci siamo stati? 10 minuti ci hanno servito. Buono a sapersi. Invece sono andato a Porto Torres una volta in piazza Garibaldi, cazzo, era passata così un'ora con questo amico mio, e in realtà io ci paghiamo la roba da bere e ce ne andiamo, ma cosa c'è, meno che tutta la sera, un caldo d'estate. E non arrivava più, un attimino stava subito arrivando da voi, e sì, un attimino stava subito arrivando da voi, alla fine io mi sono anche scocciato, che per un'ora in chimera, ma un'ora di orologio. Tu pensa là, quando siamo andati ad Alghero, no? Poi togliaci qualcosa, una pizza fuori, un freddo, perché c'erano dei posti a sedere con quei quelle specie di stufa appese all'ombrellone, no? Liberami, non era un freddo secco, a 2 ore, una volta in piazza ai nocchi, cazzo, ma ancora città, siamo poi abusati, li vieni a pigliare gli appunti, cioè quello che vuoi mangiare, no, allora ancora non erano arrivati, siamo abusati e te ne siamo andati, poi siamo andati dall'altra parte, comunque c'è, dall'altra parte, vabbè, lì abbiamo preso un freddo, dall'altra parte ci hanno inculato. Alghero non so dove si mangia bene, alla Posada del Mare. Sì, ma il primo dell'anno non so che sarà aperto. Io ho mangiato lì, vabbè, ho mangiato roba al ristorante però. Ma la roba favolosa, anche il tiramisù era buonissimo, tanto è vero che ho chiamato il cameriere e ho detto, ascolti, ma no, lo può chiedere al cuoco come l'ha fatto il tiramisù. Sì, adesso glielo chiedo, mi ha dato la ricetta, me l'ha scritta e mi ha detto, vede che cos'è il segreto, la panna, metterci la panna in mezzo al mascarpone, lo rende un bel leggero, sembrerebbe una bomba, invece con la panna è ancora più buona. A me piace molto solo le cipolle, vabbè, poi mi piace anche, come si chiama, i frutti di mare, buonissimo. Sì. Sono buone, piace un sacco la pizza, la mangerei ogni giorno guarda. Lo so, ma io non la posso mangiare, devo già farmi la glicemia, la pizza è quello, una volta si può fare ogni tanto. Cava. Vabbè già, grazie a Dio io me lo posso permettere. cazzo, non manco visto, non manco tutti di sei maranni, che faccio, non manco, ci vediamo bene, dai, perché, allora, c'è cioè, Giovanni del Grande che è diabetico, però non è che c'è mia così, non è che siamo, che c'è mia, comunque quando mangio la pizza gli sale un bel, tipo 200 e rotti, a quanto pare anche Stefano è diabetico. Io la sto controllando spesso e volentieri, sempre 99, 100, 102. Io l'ho avuta che 82, 81, ieri ce l'avevo 81 per dire. Ah, ci sono volte, secondo cosa mangi, ciatta l'impicco, ma sai che ti mangi una cosa che ti fa di male, mangiati una frittella col cappuccino, a vedere come ti dà. Devi regolarti, cioè non è che puoi fare tutti i giorni straffare, però una volta alla settimana la posso mangiare, capito? A me piace anche le pizze al taglio, mi piacciono un bel, quelle di Via Grassadeletta, la Putti, che mi piacciono un bel, con le pizze. Mi sta aspettando un'amica che sta per prendersi il computer, gliel'ho sistemato. Faccio opere di bene, là. Faccio quanto era, cosa era, va. Vabbè. Farla pagare poco, ma farla pagare. Cioè, non è che li vuoi fare il dramma di gratis, dopo poi vedi tu. Però, vabbè. Cosa vuoi fare? Niente che non c'ha soldi, cioè non c'ha soldi, no. Dice dove devo pagarlo, vabbè, non me la fatti nulla, tanto non è che ci ho messo morto. Tanto che la faccio passa così, poi soldi la faccio pagare. Non è che posso fare uno sconto, da un amico. E così, io già purtroppo campo da queste cose. Perché se avessi un lavoro lo farei agli amici, non li farei pagare. Ammazzati il tempo così. Che ti stavo dicendo, ma gli è cambiato pezzi? No, resettato, ma se stavo operativo, ho scaricato tutto quello che c'era da scaricare. Ah, l'ha ripristinato da zero, là, praticamente. Questa notizia, non è vami in farmacia, non si viene a nulla. Hai fatto il registro molecolare, l'aria. In farmacia negativo, il molecolare positivo. Che c'è un coglione qua. E io allora devo chiamare il medico e aspetto l'APS. C'è già contro i 15-0, sono un bel di naso, un bel. Ieri hai preso 30, hai preso 30. Si è arrivata al lavoro perché è andata al lavoro, purtroppo un casino, al lavoro c'è bisogno di lei, niente, e con questo gli hanno bloccato anche il Green Pass, quindi non può manco andare al lavoro. Il mio non è bloccato, io ho valido sia il secondo che il terzo vaccino. E anche ancora non è legittimo. Sai chi c'è della farmacia, si fa il molecolare e te lo bloccano, se sei positivo il molecolare, non ti preoccupa. Guarda che il medico, anzi la farmacia mi ha mandato il coso alla ATL, c'ho il messaggio io, quindi ATL, SS in genere, si pubblica avviso Covid di positività, antigenico, vedi, disponiamo autolisolamento, ma certo l'avevo anche già detto, è strano che non me l'avevano bloccato, vabbè, detto non devo andare a lungo, tu in casa, io, ma puttana. Non hai capito, te lo torno a dire, stessa cosa non fate l'aria. Dal momento in cui tu fai il molecolare è positivo, l'altro ti blocca il Green Pass. Adesso non te lo possono bloccare perché tu il molecolare ancora non l'hai fatto. Cioè il tetto della farmacia, ok? La farmacia ha già comunicato all'altro, l'ATS, che tu sei positivo. Quando ti chiamano loro e fanno la constatazione della positività molecolare, ti bloccano il Green Pass. È molto costa il molecolare. 60 euro. Cioè, non ha di gagarina, cose da pazzi. Cose da pazzi. Mi aspetto a loro. Ma non avete visto cosa è successo al pronto soccorso di Sassi? Ma ragazzi. E allora, è andato a casa, c'era un'emorragia vaginale, e l'hanno rimandato a casa e ha abortito. Già l'ho sentito, è uscita, ancora non è uscita, diciamo qui, quella dell'altro giorno. Sta succedendo un casino, ragazzi, sta succedendo un casino. Adesso io sono costretto a fare molecolare anch'io, perché in farmacia io sono risultato negativo. Adesso devo fare molecolare io 60 euro e 60 euro Anna. Capito? Ma poi si agita, chi mi chiama Anietti, no? Si agita, si agita. Avanti. Giappa, buonasera a tutti. Buonasera Antonio, questa parte. Ciao Bombolo, ben sentito. E allora, che si fa di bello? Mi drumi duero. Fatto bene. Ciao Antonio, ciao, buonasera. Tu, ti mando un messaggio per telefono, vabbè. E comunque è strano che si contraddicano. C'è la fila in farmacia, se l'hanno fatto tutti sbagliati, guai, magari è successo su uno, claro. Non penso che sia, o è stato letto male, cacchio ne so. Perché o anche può essere che ti sia venuto dopo, magari quando l'hai fatto non ce l'avevi e poi ti è venuto. No, è così, no, già. Non è così, no, sono una gaggata e basta, non ero primo, no, stindini che non è il primo, lascia perdere, non è il primo, e anche altre due colleghe di radio la stessa cosa, ma poi l'aria sai cosa è successo, l'ha fatto la prima volta, ok, e il risultato negativo, ma era contento, cioè, allora ho un'influenza, nel tragitto dalla farmacia a casa, gli ha telefonato il farmacista perché si conoscono, e ha detto là, è sbagliato, il risultato positivo dopo che si è andato via è un risultato positivo, cioè, ma come cazzo, ero lì e mi era negativo, ma nel vado diventa positivo, come te sta cosa, capito? E quindi già da lì ci aveva il dubbio, allora niente, vabbè, positivo, poi ho aspettato il coso della TS, ho chiamato la TS, è positivo ancora, capito? Adesso devo aspettare un'altra settimana, ma dimmi tu che... Nella vettura di bar, c'è un casino al bar, guarda, è incazzata nera. Ah, Santo Marziano, guarda, io già non ho il bozzo di chi si cazzo di tampone, se lo buoni, ammanico il bar acqua, se te lo tratti, Non servono niente, assolutamente, veramente è un casino. Vabbè. Va bene, avanti Luca, riprendi. Un casino così, cazzo, mi aspetto la ciabatta, cioè sto giocando con la pallina e mi aspetto la ciabatta, la ragazza già c'è il bici attaccato. Tutti i tuoi cazzo compiti esecutati, lui, poi ho sentito un rumore, tac, del cellulare vicino alla ciabatta, lui usando il suio. Lea, è stato fatto, ciabatta mi aspetto, che picchio io. Là, non lo so cosa fare allora, sono di una lampaddi, sono di una lampaddi, non so come vuoi fa. Io me l'ho comprato in farmacia, me l'ho fatto a casa. Dice c'è ancora di manco. Ma io già, cazzo, non come te, una patologia che hai, cazzo, di comprare giù un coso. Ma vai a spendere 60 euro, cazzo, fatti molecolare Gianni, ma così li intendi? Non servono a niente quelli. Io me l'ho fatto per il Verone e Venezia, perché ero con Manuela il giorno che lei era con me, poi è risultata positiva, mi ha telefonato subito, ho detto papà guarda che io sono positivo, infatti subito, e allora sono andato in farmacia, ho comprato il tampone e ero negativo, poi non lo so se vanno bene, se non vanno bene, non sono io che li faccio, però da quello che dava come risultato ero negativo. Sì, Gianni, però cazzo, non è la figlia di te che hai lavorato al 118, che sei una persona che conosce la sanità, già. Cazzo, vai, spendi 60 euro e fatti un molecolare come si deve. Non servono a niente quelli, non servono a niente già. Lo dico per te, non servono a niente. Non guardiamo queste tronzate, non servono a niente, a nulla servono. Vai e fatti un molecolare, tu che hai, cazzo, la patologia che hai ed è pericolosa. Fatti il molecolare già, deve a me, non serve a nulla a quello. Ma la volta è l'opinione mia. Vai, se ti picca a Bisano e vai, e pigliati la tachipirina, te ne sei a casa tua, te ne sei. E tutto era finito lì. Cosa cazzo un molecolare, cosa? Cioè, ancora non l'abbiamo capito, eppure io, ve lo dico, pure io sono stato male, ha già passato un sacco di cose, ve lo dico, a me non me l'ha fottinuta, a me. Sono costato a casa mia, ma ci ho fatto ringrazi miei, mi ho provato a chipirina, e cosa? Grazie a Dio, sto bene, e non si ha già fatto il supereroe, non ha già fatto. I pazzi nostri dovremmo fare, quello dobbiamo fare, perché non serve a niente, non serve. Pure io ci ho avuto problemi. Eppure grazie a Dio sono vivo, sto bene, non ho più problemi. quello bisogna fare. Lo gozo, ma va vuol dici no, se attacca di cirondi di gueo, va, andiamo a ridivenga. Poi per che cosa? Per crearmi più problemi. Vai un casino, vai. Grazie a Dio, sto bene, non ho problemi. È finito il discorso. A tu perché ti è venuta a far male il genere. Allora tutti quelli che sono intubati all'ospedale, che non respirano, che hanno problemi ai polmoni, si fanno la tachipirina, non si parla così, dai. Ma vai, è una cosa che ti può venire in forma leggera oppure in forma grave, perché c'è gente in rianimazione anche. Ma tu la ne sai se è chiuso, ma ti ce n'erano abbastanza in rianimazione, cosa che non si sapeva neanche. Ma vai tutto COVID, la moda, ma smettiamola, ma dai, ma finiamola, poi dobbiamo capire una cosa, se non si contagiamo chissà cosa, se è vero che esiste questa malattia, se non ci contagiamo, no, che la cosa è triste, non ne usciamo più, me, se è vero che esiste questa cosa, ma dai, ma smettiamola, finiamo unita. Un virologo ha detto che prevedeva che almeno 10 anni durasse questa storia qua. Tanto io sono d'accordo con te, però nel lavoro di mia figlia non è così. Comunque, questa cosa della farmacia, Gianni, dei tamponi farmaceutici, l'ha detto Bassetti, proprio oggi a Canale 5, di non fidarci perché stanno risultando non affidabili. Infatti lui dice, io punterò il dito con questa storia dei tamponi farmaceutici, perché appunto stanno diventando una cosa non affidabile. Non affidabile, quindi per quello che sto dicendo. Infatti c'è il vizio risultato di mia figlia che è uscito. Vabbè, comunque, un bel casino. Va bene, ognuno la pensa come vuole, io la penso diversamente. Vabbè, avanti Luca, io rimango un attimo in Corix che è arrivata mia figlia adesso. Io farò una chiacchierata. Io adesso lunedì prendo l'appuntamento e vado, mi faccio molecolare, pago 60 euro. Andiamo io e mia moglie, non me la fotti lunga, ma è riuscito in Iraq. E faccio, vediamo. Io devo uscire, cazzo, devo fare tanti cose, non devo cacciare in casa, non ho fatto un cazzo a me di cacciare in casa. Ma poi il cazzo di Uber me ne uscì un po'. Sì, non posso uscire. Insomma, sento il medico lunedì, ma tanto io non vado a preso l'appuntamento, va a fare un culo, non lo faccio. Però lo dico al medico. Se no così non usciamo più. Sì, non usciamo più. Ciao Cristian! Non lo so da Cristian. Io non riesco a far più la Cristian così, ma non capite voi. Cristian, di nuovo stai facendo parola, io ti sento così. Adesso va bene. Allontanate un po' il microfono, se no esci tutto canto. Capo, stavo dicendo che interessa. Tamponi. Ma cosa ti mi dà, un gusto? Ah, ecco. Capito. Vabbè, ma dice che non. Cosa stava dicendo, che non sono affidabili quelli della farmacia. Ma io non l'avrei permesso se sarebbe scoperto che non sono affidabili, non avrei permesso di fare. Ci sono le file mie nelle farmacie, addirittura anche in via Mores. Da Gianmario, c'è la fida sino a pure, lui mi sa che non le fa molecolare, fa di altro. Sono offendi di là dai zigozzi, ecco l'avevamo buon preso. Sono troppo incazzato, cioè su Facebook ho messo, poi si viva la mail per prenotare il coso, e siamo bloccati qua 24 ore. E mi stai dicendo che cosa ha taggato Lulu? Quando stavi pensando la Game Master addirittura. Ehi, a te ho taggato, non a Eugenio. Ehi, Eugenio mi ha taggato a me. Ah, nel 2020, 2 anni fa. 2 anni fa oggi, dai, giorno 15. Ha durato un poco che Santelli, ha mazzato in varia che l'ha venduta. Pregate a Superlem è un altro pianeta, lascia perdere. Già, l'amato, poi è inutile. Tanta di viaggio c'è la chiamata di un Claudio. Vabbè, la nuova, è bussata, non è usata. Quanti anni ce l'ho. Io mi ha pigliato me. Sempre ha preso me. 20 e vabbè, poi noi che tiriamo molto, poi già tira, eh. Io l'ho vista muoversi questa antenna. E è andata ancora sopra. E diciamo problemi grossi, no, che me ne dà, eh. Ogni tanto magari quando magari piove più del dovuto, poco gli stazionari salgono, però va bene, dai. Quanto ce l'hai piazzata lui? 10 anni? Anche di più di 10 anni. Io la mia ce l'avevo, mi pare, 12 o 13 anni piazzata. Ma poi vabbè, per il radiale l'ho tolta, perché sennò andava ancora bene, era un euro di stazionare anche senza radiale. Vabbè, adesso sono piano di massa, capito? Comunque, sono un po', se devo trovare un giorno bello, però questo se lo faccio a... come si chiama? Mi devo procurare un palo prima, però un palo di quel diametro lì, però lo voglio telescopico, devo prendere il diametro e se così lo cambio direttamente. Il idraulico, il diametro ha, l'entrata della mantofa. Cosa? Che diametro ha l'entrata della mantofa? L'entrata della mantofa mi pare che sia un pollice o da 3/4, ma boh, non ricordo, forse era un pollice. Ho capito. Meglio. Adesso vediamo. La mia è entrata giusta nel tubo. Anzi, è entrata poca puzza, perché era proprio giusta. E poi, vabbè, la bullonata. Ma quale? Il tubo tuo? Eia. Il tubo che c'è tu non era un pollice, un tubo che c'è tu da 3/4, quello già me lo ricordo. E vabbè, ma il buco di quell'antenna che ho comprato adesso era preciso al tubo. E quindi da 3/4. Allora, secondo la manto va da 3/4 il buco. Da 3/4, eia, vabbè. Se no, se rimango su tante non succede niente. Intanto quel giorno lì, lo faccio di sabato. Adesso vediamo, perché quello è tutto arrugginito, poi bisogna vedere se ne esce. Chi lo sa? Se tu, Claudio, a memoria, la mantova nell'altro tubo che avevo ballava un po', ti ricordi che non era giusta, perché gli avevamo messo un tubo d'acqua più fino all'interno per rinforzarla e finiva col tubo d'acqua. Ehi, infatti. Sì, me lo ricordo. Più, sta giurito che se non molla, se non molla, non te ne fotte niente, si taglia con la mola e si lascia il pezzo, si vernicia in alluminio e si lascia il pezzo e si metta l'altro. E si metta l'altro quale? Mi ha trovato è cattibaria giù di buni. Chi è? Lo metterà praticamente... un palo che innesti lì, dove io taglio, e poi un altro ancora per farlo telescopico. Quando lo devi fare già te lo dico io come devi fare, non ti preoccupare. Se ti ho già fatto io non lo vuoi fare tu. Io l'avevo fatta a carbonati così ho stesso, in quella che non nella vecchia, io l'avevo messa nuova, ho lasciato 80 centimetri attaccati, capito? E poi da quanto era quello? Da 3/4, avevo messo quello da un pollice e il bullone passante, il resto tutto telescopico, sono due vassai. Oggi ho visto la Smart Tech piazzata. Quella di Carlo hai visto? Ehi, mi sto innamorando, eh. Anche un'altra guba. Io la toglierò direttamente alla mantova, perché cioè, non c'è paragone. Segnali bassi io non manco paragone. QRM, segnali bassi. È una cannonata questa antenna, ma non una cannonata, no. di più, non c'è tattata, non ha niente a che fare con la mantova e con le antenne similari. La una 7/8 riceve e trasmette molto meglio, ma poi non è ingombrante, capito, perché non ha radiale, c'è il petto del direttore, ma non ti crea problemi di te. Se non è la Smart Tech, in chi vi faccio un culo grillo? Ci sto veramente pensando seriamente. Pongo un tubo appena più grosso, li metto, lo rinforzo sotto e poi ci ho quelle staffe che vanno a sentire così. Mi bambini, ragazzi, lo Iuia. Lo so. Ma non è pesante, pesa di chi? Pesa quanto la mappa, ma non è un problema. Non è un problema, capito? Si può piazzare tranquillamente, però poi me ne darei la risposta. Assolutamente. Tu mai certo che ne ha ordinato 50 e non ne ha neanche più una. Tutta la sua provincia ha riempito tutto. Ne ha mandato altre 4 in Sardegna, sempre tramite me. Capito? Carlo Babbo gli ha fatto fare 20 euro di sconto, non è lo stesso sconto che fa a me, ha fatto fare a lui. Quindi anziché pagarla a 180 l'ha pagata a 160. L'ha pagato. E vabbè, vedi tu Anto, io sono soddisfattissimo di questa antenna e ne ho fatto comprare già una decina ne ho fatto comprare. E tutti mi hanno dato esito positivo, proprio alla grande. Addirittura c'è un animatore, quell'animatore di Cagliari che gli ho dato la mia, che gli ho passato la mia, la sta usando in 10 metri, ma ha detto avevi ragione, cazzo, ma 10 metri, l'ho provata io, mi sono spaventato, uno di stazionari a 28.500, cazzo, allucinante, senza accordatore. Sì, quella io, adesso non va bene, adesso no, ma più là io mi metto quella, cioè mi voglio mettere quella. Mi piace un bel, mi piace, sono convinto che da qua sparo un bel. Io guarda, da qua senza la smart tech perdo 5 punti S, sono due zenne, invece con questa guadagno 5 punti S, sia ricezione che in trasmissione, e poi mi danno quello che vogliono, non c'è niente da fare. È stato contattato non da me ma da tecnici che venditori, che per il momento è la numero uno in assoluto per la 27 e anche come resistenza. Avanti Gianni, riprendere, mi allontano 2 secondi ma sono qua comunque. Adesso non posso spendere niente, ci penso mi immedinare i medizini, purtroppo, ve la vivo, c'ho un bel po' di monete, ho fatto quelle, c'ho un dentista, io adesso devo fare anche il tampone lunedì, perché mi stanno aspettando loro, capito, devo fare l'altro intervento, infatti oggi ho scritto al mio dentista, e che sto come sto, ma tu io già sto meglio, non mi sa bene, mi ha detto, che appena è, mi chiamano subito, ha già gettato 2 mesi, cazzo, ma è arrivata apposta, giorno 12, pum, mi senti male, ma vaffanculo. Vabbè, però io ti consiglio di non fidarti, poi vedi tu. Vedi tu, io a me, Redina, non me ne ha fruttito nulla. Adesso io lunedì faccio una telefonata, prendo appuntamento a mia moglie, 120 euro, rispetto a volenti. Ilaria mi dà 6 euro, 60, più 30, a me peso in farmacia, e sono 90, quindi non mi interessa niente. A me mi interessa la salute, no, Redina? No, non sta bene. Lo so, lui ti dice, ma se io non posso. So, fatto un conto, già, la tua faccia sono 30, più tutte le medicine ci penso un po' di poco di là. Lo so, purtroppo lo so. Vabbè, avanti ancora, riprendi. Capa, uia, cazzo di buoni di guai, chissà niente, secondo me... Boh, ma che qualcosa di strano, beh, io non mi fido di chi si, no, manco per idea. Ma è importante che te ha avuto come io. Cosa cazzo vuoi fare? Io sono costretto a farlo. Comunque, molta gente l'ha fatta nel negativo. Aspetta, tu ha figlia l'ha presa in forma magari diversa, che adesso boh, non lo so, dice Luzzani quando sono confidenti, se lo so comunque, solo loro lo sanno di quello che stanno combinando, stanno gonfiando la borsetta. Sono combinati, te lo dico io, sono fieri cazzo di aver fatto un altro coppe di viva, di aver, cioè mi viene un poco di raghi, questi cazzo d'animali, ma no, io non mi fido di quelli, non ti preoccupare, ho ragione la testa mia. Vabbè, tanto cosa vi dica, non so, vabbè, comunque. Ci vedrà. Avanti Gianni che sei rientrato, le prendi. Vabbè. È sempre un'incognita questa cosa, ma meglio prevenire che curare dopo. Io la penso così. Poi c'è gente che dice bisogna vedere, io lo faccio se so cosa c'è dentro il vaccino. È grande di minore che ti fa dire tanti pugli, sapevi cosa c'era dentro, eppure lo faceva. Ma anche se io ho praticamente visto e sentito al televisore di questo bambino che ha fatto l'antipolio ed è rimasto paralizzato, camminava, dopo non camminava più, la mamma era disipirata. Bisogna non lo so, però è così, vabbè. Non so cosa dici, io ormai di là non me ne affrutti più nulla, io ormai di loro mi faccio molecolare, pago e non mi interessa, perché io quelli della farmacia no, per me non sono affidabili, poi io non lo so quanta gente sta facendo, anche altri hanno fatto quello della farmacia e poi hanno fatto molecolare e il risultato positivo, quindi... Perciò non è che ve la vi lasci assai. Ma boh, avanti Luca, riprendi. Mi provo, si tanto pure di non mi va a tenere di fare un po'. No? Se risulto negativo, bene, se sono positivo ce la vediamo in culo. Ma tanto non lo aspettavo me, quest'anno di merda, è stato già di merda. Sai come finisce? No, ma tu di bambini venire problemi, no, con chi sa niente. No. Andiamo in ammazzia, ognuno canto per me. Non mi interessa a me. Ehi, tu, come li so? Ah. Ma sono i corrudoni, so. Vabbè. Aspetta, adesso che sta finendo sto cazzo di dentista, poi del resto non me ne frega niente. Anzi, poi il resto si vedrà. C'ho anche bu prima. No, mamma, non è buono, non ti preoccupare. Non è finito ancora? No, non fare gli altri impianti già. Ma non li ho fatti gli impianti già? Sì, quattro, ma se devo fare gli altri. Cazzarola, mamma. Quelli di sotto? Sì. I molari, no, quelli di stato ci sono miei, quelli. Quelli mi li ha tutti ricostruiti. Capito? Oh, yeah. Casino. Piano, dai, si fa. Prima c'era la cosa, come si dice, la salute, poi se ne avanzano, devo portare la marina in pizzeria. Vabbè, quello lì già è una cosa che si può fare sempre. Sto scherzando. No, avanti anche avanti, la voglia, la posso portare anche 20 volte. Grappa, e chi so già, piano, già si fa, e chi so, appena che finito un casino. Ascolta che sento buonasera sottofondo, avanti chi ha detto buonasera. Ciao Giovanni, ciao, ben sentito, cordialità anche a te. Avanti Luca, lo senti a Frattamona? No, ancora sono da bacio, Frattamona non lo sento. Chi lo sente? Ma a me me lo coprono, che ciupi ciupi, mi ricordo, me lo coprono, è il problema. Se mi senti, buonasera. A tutti, ha salutato, ha detto che ti sente e buonasera anche a te. Tu Claudio, lo senti? Vediamo un po', mi senti Giovanni, 1, 2, 3, prova la Nutella, avanti. Già, mi ha sentito. Ehi, sì che l'ho sentito, ha detto che ti sente, non forte come qualche altro, però ti sente. Va bene, va Beh, ci abbiamo avuto un amplificatore a 100 watt, già lo abbiamo ben inteso. Poi dopo questo qua da pochi watt, già 5 watt, 6 watt questa radio da qui. Qui ce l'è uguale. Beh, è normale. E se tutti usciamo tutti uguali, arriviamo più o meno tutti uguali, non è che mai chi più chi meno. Però ovvio, se uno ha qualche watt in più è normale che sia più forte. È un discorso giusto quello, senza problemi. È come se io mi metto a fare le gara con la macchina di Maria o con la macchina tua. Sono sicuro che mi superi. La mia arriva sino a 200, perlomeno l'ho tirata sino a 200, al contachilometro. Oh, la Maria arriva a 150. Quanto hai di cilindrata qua la Maria? 1200 benzina. Allora cammina a buon bene. Pigrillo. Vabbè, va. Anche sui anni non fa manco tirarla, lasciamo che ci fa qualche brazza e tutti ci montano di un braccio. Se vuoi due fidati, che cazzo di macchina vinci, per carità, mamma mia. No, io, a me piace correre, proprio una macchina come si tocca, cioè una macchina nuova, no una macchina vecchia. Quant'è cilindrata la tua? Ah già, quant'è cilindrata? La mia è 1400. 1400 fate 200 all'ora? Sì, è 1400 turbo però. 1400 turbo, quanti cavalli c'è? Boh, non lo so, non me lo ricordo quanti cavalli, 130 mi fa. No, 1400 turbo, 130 è scifo. O 115 o 120. E a tira io questa macchina, non ti preoccupare. A tira. Si cammina, in tutta linea. La mia c'è 150 cavalli. È un 2000. L'oggetto ripassa come niente. Arrivi a 180 in quinta. Va bene, va bene. Non è tanto. Non so se abbiamo macchine che corrono al pieno per correre. Assolutamente. Per andare piano. Va bene. Come stavo dicendo? Marina ha fatto la tampone. Sì, Marina l'ha fatto, guarda il mio negativo. Sì, sì. E poi sta bene adesso, non c'ha influenza né niente. Ma io non ho capito una cosa, che quando io metto in moto con la macchina, no? Cammino, le ruote si muovono, come mai? Cammini le ruote si muovono, che cazzo che rimane in ferme le ruote? Ah, arrivi di Iapo, cosa ne so? Io faccio proprio di città, cosa ne dico? Comunque 200 li ho fatti a gas, Claudio, a benzina non lo so, ho provato a gas un pezzo, ne ho fatto all'Anda Urbia, hai visto quel discesone che c'è all'Anda Urbia, ho fatto quel pezzo lì, l'ho tirata lì e poi ho mollato perché volevo vedere se quanto arrivava, e lì è arrivata sino a 200 a gas. Ma in discesa o in pianura? No, in discesa. In discesa, perché quella macchina c'era mio nipote, uguale precisamente per la tua, per quello che l'ho detto. In pianura fa 175-180, non di più. E allora non è come la mia, perché la mia in pianura cammina. E supera 190 perché andando al ghero l'ho tirata sino a 190, qui ho mollato, non c'era tutta l'accelerata. Bisogna vedere se è turbo, se è normale, perché ci sono uguali come macchine, però magari non è turbo e è diversa come ci si tratta. Grazie già, mi va giù e dai due a me le macchine giù, ho avuto forse più di te. Sto dicendo che 1400 turbo benzina, ok, 1400 turbo benzina, e ti dirò anche che agli stessi cerchi tuoi, gli stessi opzioni tuoi e lo stesso colore tuo, e lui nella strada dei due mari in rettilineo, pianura, perché ho detto, ma tu vai, perché c'è un pedone di macchina che vai, perché lo prende in giro. E me così non arriva a 190, intorno ai 185-180, proprio da solo, l'ho tirata al massimo. No, non fa più di quello, per quello che ho fatto la domanda. Tu hai detto fa 200 all'ora, 200 all'ora dopo, in discesa. Sì, l'ho tirata all'Anda Urbia lì, in quel discesore che c'è all'Anda Urbia lì. L'ho tirata a quel pezzo lì, poi ho mollato perché non volevo problemi, anche perché non ero solo e stava sempre rompendo le scatole. Vai piano, vai piano, vai piano. No, non ti mettere a correre quando sei in compagnia. Sempre meglio fare le prove tecniche quando gira giù. bene, va bene, va bene, va bene. Si vede rottura di balle. Una faglietta a cazzo. Povera mia figlia, cazzo, disperata. Però per un motore così piccolo non è poco. Cioè, per un 1.400 è tanto con la velocità. Certo, va bene, non è che dicendo niente. Sì, sì, lo so, motore della Giulietta, sì, sì, sì, lo so, motore della Giulietta, però non è Alfa Romeo il motore tuo. Ma con quello Alfa Romeo è Alfa Romeo, è della Fiat di adesso. Sì, quelli di adesso, ma non mi è Alfa Romeo, però. La mia è la 147 Alfa Romeo, Alfa Romeo. Alfa Romeo, proprio Alfa. Fiat. Alfa Romeo. E quello alla Giulietta col motore Fiat si la magna. Ma non si la magna, lo ribassa in Nantu. Ma la tua è come quella di Franco Califfa. Franco Califfa ma c'è 115 cavalli, non vado a 150 cavalli. Ma la tua è superiore come cavalli? La mia è 150 cavalli e poi non è uguale, la mia c'è l'interno in pelle, la mia è l'S. La mia è il 147 Multijet M3, l'ultima che hanno fatto e poi è nata la Giulietta. Capito, il motore Alfa Romeo, Alfa Romeo, c'ha l'interno in pelle, c'ha tutti gli opposti da immaginare. Navigatore, tutto, l'aria condizionata, bizona, davanti e dietro, capito, tutto dall'A alla Z, airbag dietro, airbag nei sedili, il fianco, tutto, con le Franco non fa nulla. Ma anche con le Franco già cammina, ho visto che è abbastanza attiva come... Immaginate della mia, con le Franco, del Franco 315 cavalli, la mia è 150, Multijet M si chiama, Multijet M, capito, M3, non l'altro, non una macchina, un razzo. Io c'ero un periodo e l'aria l'avevo fatta mettere il limitatore, figurati, ma ti si misura già dritta. È un razzo quella macchina, nonostante ci abbia 280.000 km, è ancora un razzo, ma ci butto una giuscia all'OBC numero BMW 2000, 140 cavalli, 150 cavalli, uguale, per BMW ci vengono i diritti. Infatti tu dopo l'ho picchiato forte, andando a Olbia, sempre, anche noi, andando a Olbia, allora ci ha preso 6 cilindri, ma adesso ho picchiato forte, vabbè, cazzati burburissi, adesso c'hai un 3.600 cilindri, cazzo, contro un 2.400 cilindri, fai la brava. Le prove si fanno in parità, di cilindrata, eccetera. E vabbè, a me mi soddisfa molto quella macchina, quando devo fare i sorpassi non ho problemi. Con una chicchiata è più basso. L'altra che c'avevo, la Station Wagon era più lenta. Se c'è una strada camminata, ma per prendere velocità doveva avere un po' di strada. Invece questa qua è brillante proprio. Io c'era la mia, se non l'ho cambiata c'è una motivazione, no? C'è un motore, io una bomba, poi a me mi ha detto Franco. Ancora freddo, ma adesso sfruttatela ancora e poi la demolisci. È un peccato lasciarla così, capite? Se l'avrei cambiata quest'anno, però ancora me la sfrutto perché se l'ho verniciata tutta ok, ma c'è un motore, è una bomba, ma non una bomba, una bomba a mano, non la prova Franco, ma peccato non mi ha trovato 147 così in ordine, ma io la tengo per proprio. Tengo molto bene, adesso ho messo le gomme, quelle invernali, le ho fatto fare due braccettini davanti, ammortizzatori, tutto, c'è un sacco di soldi, quindi me la studio, poi vediamo, quando non cammina più, allora la versiamo e ne compriamo un'altra. Cariello, con quei tattini la cucina di Raedo. Quelle vanno sempre, guardi, ci sono amici che ce l'hanno e la tengono bene, andano sempre chi sei macchine. Motore Alfa Romeo, non ci scherzano. Cosa hai detto già? Ti ho detto di tenertela, perché così dai soldi a lui quando che si rompe e vai da lui, no? No, assolutamente, ma puttana c'è a me. Io la tengo come la macchina tu lo sai. A me se accetta la denuncia con qualsiasi cosa l'ho sempre portata all'Alfa Romeo, non è che posso andare a Renault. E lui mi ha detto che in ordine la macchina, che è un peccato lasciarla, capito? Perché intanto te la rottamano, mi rottamare una macchina in genere, tanto c'è scendi di dentro nuovi, ma nuovi baromi. A Veneto non c'è mai bugiato nessuno, tutti in pelle, ma pelle però, pelle buona, pelle vera. Quindi cosa? Ci vendono in tutto e ci vanno come all'oppo, capito? Perché se vuoi la comprare la nuova la prendi con gli incentivi, no? Quindi quella richiede gli incentivi di rottamazione, perché la macchina è già anziana, però lui mi ha detto è un peccato darla su, per ancora, cioè, per quello no, non l'ho cambiata, se no l'avrei cambiata quest'anno. Infatti adesso conviene aspettare che diano gli incentivi, ma stanno dando molto gli incentivi sulle macchine elettriche, quando compri la macchina elettrica. Ma io ho poco affidamento a queste macchine elettriche, io prendo la macchina, prenderò una macchina elettrica, che sia elettrica e faccia tutto il resto, ma ci vediamo, però non so, non ho ancora idea, non sto pensando alla macchina. Sto pensando al Covid adesso. Avanti a chi tocca? Luca. Un attimino che devo fare una cosettina, dai, sono qua, Vediamo se ho scappato. Dopo ho mangiato cioccolato, mi devo pure gli impianti già, le prendo. E di Lucio mi fa venire la gara. Non me lo sai quanto mi piace, c'è un cioccolato per lui, di quello con riso soffiato da Ditali, costa un euro, una cazzata. Ma lo sai quanto è buono, una tavola bella grossa. Ma ogni tanto me lo compro. Maria Marigaldo, pane all'uva, buono, faccio un sacco a me pane all'uva, buon arrivo. E più una... un po' di caramelle, dove me ne ha ricaditi, io mangio le caramelle senza zucchero. E poi la vicina di casa ha detto se mi faccio una cortesia, se dovevo uscire a comprarmi le caramelle quelle con le potenti per la gola, no? Ma allora se esco, poi vabbè, ma se le volte le do un pugno, ma un po' di caramelle quella al miele, e poi c'erano quelle golia, quelle bianche, da. Se le usate per la gola. Poi mentre giù la gola sarà a posto. Cazzo, mi si inceppava la, quando parlavo, mi si bloccava. Ma si sta affidando a Marina a venire? Ma ragazzi, sono un positivo, positivi gioetti, guarda c'è un Antonio. Ah no, oh, lascia perdere, non è che ne ha poco di problemi che sa gentaglia. Ma ne ha vista positiva, avanti. Ahia, progarinale, non si può fare caso di là, c'è Cristian anche, Cristian ci sei? Cristian è il fratello di Antonio Riserva. Io non so chi è Cristian, ti ho detto per me che non ho sentito. È poco fa chiamato, però io lo sentivo tutto strano, come se avesse la patata in bocca, così. Gappa gappa. Ci va, eravamo a poco, siamo quasi a Gigi, per me quasi. Ma ci devi andare tutta sera. Cosa? Se devi uscire stasera. Cappa! Guarda tu vici per Covid in giro, vici a tu, lasciami il dico, e si canta con la mascherina, non ti fida, perché di fava in questo circolo. Vai, cosa fiacco di fava? Vabbè, fammi dei piatti. Tu lì te l'hai preso, il vero? No, dove vendiamo noi con Antonio, da Mirko. Ma so, diceva, ma come si sentiva male già? Ma Maria non l'ha presa però, Mia Maria non è Maria Franca. Neanche la moglie, la compagna di Vincenzo. Ha pigliato a me, a Vincenzo, a Mirko che è proprietario, a Gambuzzeri, Marcello, un ragazzo che c'era lì, Stefano, gli altri pronno. Ha già fatto strage. Ma io già ho, sai, non so se ti capita, quando c'è un inizio di tosse, no, che mi vuole di tosse non ci riesci, così ero io, non avevo gana. Quando me lo sento, no, allora c'è qualcosa che non anda. Poi da lì mi è iniziato mal di gola, e poi da mal di gola ho misurato la temperatura era 37 e più. Un casino questo. Questa sera bisogna stare un bel attenti, ma un bel però. Non morire nessuno. E a chi? Ma qua non è che voglio dire molti particolari io, ma già non è morto nessuno, sono curato e tutte cose.